tagliare, non le fai due ore di fila, perché non le fai, perché due ore di fila di spugliatore vogliono fare, ti fermi, metti benzina, metti quello, fai quell'altro, abusi in casa, e... dai, va che io voto un po', io faccio due pieni e una coglioretta, due pieni e una coglioretta, a quelli di leva io non faccio più un'oretta, ma pessimi, quindi non le fai tutto il giorno, adesso io non travaglio con l'ana, se mi usi in baccampagna, no, finta che una giovana mi voto, la buca con una giovana, bimbo mollo, e lo voto di domani o quando faccio bene, tutti insieme. Beh, certo, quello è naturale. Io ci vogliono sempre queste cose in casa, specialmente uno quando è in campagna. È la cosa più necessaria che c'è, che si fa fare le pulizie e tutto. Sì, bravo. Ho detto che volevo prendere un trattore, una cosa, ma non ne vale la pena. Ma te si va a trattarlo un 4 5 volte all'anno, non ne vale la pena, almeno che uno poi non si dedica anche a prendere, a passare il trattore, a passare il trattorino nelle vigne, nelle cose, però poi inizia l'usura e vai, si faccia un mese, si rompe il mezzo e a voi arrivate in casa e non ha. Non è una cosa che al momento, dai, ci ho pensato bene, è una cosa che posso risolvere a rasa erba e a dei spugliatori. Tanto io, se questa qua pulirla bene la campagna, sono 7.000 metri, ci metto 2 giorni. Io se inizio 2 giorni, ogni mattina faccio dalle 8 alle 5 e mezzo, dalle 6 di sera, in 2 giorni mi la dico in terra, in cui in terra. A cui uno ha una traghetta a fuga, fa, ma quello si fa ogni fine stagione. Comunque domani potremmo prendere un altro abituo. Intanto quelli Flor Garden, Flor Garden, mi pare che sia, cosa è. Anda bene, ha fatto 4 anni, 70 euro, 4 anni, buoni muro, anda bene, una cifra accessibile. A voglia, forse 70 euro di euro, anche 80 non è che sia questa gran cifra, non è che sia, è abbordabile. Quanti ne vedo di quelli di marca, fermi da Mariani, da Gos, da Pinuccio Sanna, tutti, Alpine, Squarna, tutti vedi, tutti vedi, ma si tende i ribetti, non si sa fare i ribetti, quella cordicella si fitta che... e ti sta vino e fuoco, a voi costano un becco, io del mio, allora costavano più di questo piccolino di bricolo, costavano più il kit di membrane, che costavano 25 euro, e il carburatore che ho pagato 30, vedi? Ma secondo me c'è una smonta membrane, si chiama fa, ma fatti un culo da mio carburatore, no? Arrivo rubiato, collego la bolla, le bombette, e poi mi morte, si è andato. Vabbè, sempre reggio, però fa bella l'angiani e tutto quanto. Uno quando ha 10 minuti di tempo si fa, si arrangia, sempre il barretarmi, non fa altro. Però, come ti ha detto Duni, Mattesi, da Mariani viene giù un bel rimarca, ma io avevo un amico, capivo, non l'hanno per più. Comprava sempre roba di marca, spugliatore, trattore, tutto quanto, motozappa, là, e tutto quanto. E mi ha detto, bravo, e guarda, così, cominciamo a farmi raccontare. Mi ha detto, era che raccontare. Della niente, che comprava come per i biglietti, si rimaneva una cazzata, e 2 anni di più. Certo, poi basta ogni volta che lo uso, lo pulisci, mi fai la manutenzione, fa le cose molto serie, ogni volta che le uso le pulisco, le affilo la catena, le lubrifico, le faccio, invece il giocatore è lo stesso, e grazie a Dio mi è durato le motoserie, cioè, guarda, perché avevo questo tutto a sé, l'avevo preso. sono via tutti i compari. Infatti quando ho detto questa cosa che ho imparato, beh no, in caso che alcuni non è che mi sorrude si può in lui, e io non lo so, casa che mi fa, sono un po' più. Io lo so, io lo so. Una cosa va a tenere da conto, però quando si fascia, diciamo, quando si rompe, la fai così poco, non conviene neanche aggiustare. Ti recupero i pezzi buoni e il resto prendi e te lo compri nuovo. Venga, infatti, se c'è una cosa vendendo lo compri uguale, lo compri in modo che i pezzi li puoi usare a quello lì. Sì, sì, c'è, bravo, guardato sul catalogo, e ci sono, ce ne sono tanti disponibili, poi ho soltanto di portare un seguito. Quello che servirebbe a me, lo sai cos'è invece, bello, anche di quelli di bricco, ma purtroppo con bel tagliacinti, quelli di braccio allungabile, con anche a batteria o a benzina, anche a batteria mi andrebbe bene, un bel braccio allungabile con la catena, tagliacinti, pappugale, quindi la danza in sopra, quello già mi servirebbe, in modo di notte, in modo che non trovo la scala, e tutto, per portare la bella arancia, per tutti i picchi, fa tutto. Per tutti gli oleandri, le ciofer, per i simungavi, la guglia, come fai a piccato. Ma tu a Lidl non ci fai mai? C'è un lavoro. Guarda che una volta l'ho visto io quel tagliacinto con il manico allungabile lì, l'ho visto lì me. E non costava mica tanto. Già l'ho visto, era andato a prendere, l'avevo preso, poi sono andato a casa ad aprirlo, la verità era già mezzo aperto, però mi hanno detto se manca qualcosa venga e me, non sono problemi. E ce n'erano due, erano tutti e due così, tutti e due con la scatola un po' rovinata, dai. L'ho preso la giubilea di una, giunta da casa, se la andava a piazzarle mancava. Mancava un pezzo dove infatti c'è il plateau della frizzoncina. Me l'ho riportato, bravo, gli avevano venuti tempo un paio d'ore, mi indugirati, quindi mi ha dato il reso, mi ha dato i soldi e ciccio. No, ma c'è la bricco, invece mi costano 90 euro, che fa la taglia siepi, taglia bordi, dai, tutti i figosi. Cappa, no, questa è la che c'aveva, allora, c'aveva la taglia siepi, la forbice, tipo un tarracchino, tipo una motosega, lì, a via, un'altra cosa, non mi ricordo quante cose erano, però 4-5 erano. Sì, sono componibili, però. E sono belli quelli, lo sai il lavoro che ti risparmiano. Ma chi devo sta piccando le cara con un racchino, a tagliare una minca, a mettere i figli più buoni in terra e arrivi in tutti i giorni, aperto il braccio mi sembra che sia 1,50 m, 1,70 m, tutto il gozzo di tappa, presso le cara, piccati, venni. No, il braccio mi sembra che sia 2 metri inestabile. Però lo puoi modificare, te lo puoi allungare tu. Sì. È così, mi sembra che si può modificare con qualche altro tubo, là, altro tipo di tubo. No, ho capito. Ma vabbè, quando vai a Baiduzia e basta un video a più vicino. Domani c'è questa cosa, non si spiega solo. Poi non so cosa che mi nulla, però dai che mi serve, già mi serve. Fino a è un problema, non è un problema, l'ho fatto e basta, ti giuro la trattatura efficiente, quindi giuro la bagassa però deve essere efficiente. E va bene. No, l'effetto di giù, quello che ho appena entro sulla destra, lì siamo di un contrattore, lo faccio arare. E niente. Quindi subito termini sempre l'altro, me lo porto qua per un piano. Se continuo a me nel cavare i danni, la prima volta che facciamo un operatore vado in 10 minuti, fare i macchini, pare. Razza di cose, razza di macchini. E non ti vedi di sabbia, non ti vedi di terra per damuta. Questa è che va a fare in miniera. Tu li devi portare dove ci sono i cartuffi. A me non scava per fare i soldi. Mi sarà che non da tutto gli umani. Allora mi hai avvicinato, come la dici? Una via lì, sono andato a Cassiano, no? E questo va via, l'anidrato, questo grande l'anidrato, un cane da caccia, e ha detto di sé, mi ha anidrato un cane, cazzo, micidiale francese, micidiale. Una via andiamo a fare, andiamo a Cassiano, mi ha detto, dai io a vivere, e io vengo via, ci mandate, tira l'uomo uscito, tira, alla curva di Ubbia, si gua dai Roma che ce lo mangia. Cucchiaccio di caccia, buia, un uscito di mangia. Vabbè, certo, il tarito non è massimo, ma capita che la rivedo un branco, ma che un cane che hanno attaccato la stessa testa da Mugè, non si lo sta a mangiare. Voglio, ma non ce l'ha abituato, E anche ci rivantano, noi dice, dai, la caccia è bella, poi con la musica da, e la caccia è del soggetto, con le tacche tre, ma guardo di tutto in mezzo. Va bene. Non ti dico che l'hai attaccato. Ma te sei cosa? No, ma io ce l'ho, da che tu me l'ha regalato, l'ha detto, è ammannito, Ha detto, no, già pronto, mi andiamo a cacciare, sai, poi se ti ne vuoi, non è, farò muro, ti ne vuoi. E lui la dice, se non gli avrei venuti da cena, cazzo prima di un'ora per lavoro, per pranzo e cena. Ebbene, io credo che mi dica la vuole per far mangiare sì, ebbene, non baccano, hai tu grazie. Va bene, comunque io sono stanco di questa cosa che gli ho fatto dalla ventolina in questo bufferino e alla grande, la bassa in barica temperatura prima. Bello. Vabbè. Sì. Ma sempre bene la radio qua? Sì, sempre bene. Ma dove c'è la pratica gliel'hai agganciata? No, sopra il dissipatore, come si mette dai normale, sopra il dissipatore, una ventola silenziosissima, quella ventoletta bassa, quella super sì, e poi non è neanche rumoroso, ma proprio silenzioso, e dai, andavo, è anche la ventola di lascia la radio, quella, diciamo, delle due, mentre, la sentenza. No, non è che si senta, la senti tu, ma non qua. Allora, no, quell'amplificatore è di qualità, voglio mettere anche una radio, ma No, io ci ho acceso il ventilatore, l'ho acceso e si è accesa la ventola di radiatore, ma quella la presa subito. No, ma non sento tutto questo affare sotto e basta, ci è stato proprio caso per sentire, perciò attenti se la volete. No, va bene. Comunque volevo soltanto una bella modulazione, sto ascoltando qua, volevo sto parlando qua, è tutto bello. Io ti grido, mi stai ascoltando con l'NC60, il K680. Sì. No, la verità poco fa ti non entrato, era troppo lontano, o forse era guardato troppo con la voce un po' alta, capito? Mi andavo un po' a saturare. No, io lo ascoltavo bene, ma poi, vabbè, ognuno ci abbiamo la nostra ricezione, no? Oh, da raccontare, io lo sono ascoltato con la gratitudine, con l'affetto, sto ascoltando dal sindaco, con l'autoparlante del sindaco, no? Il sindaco anche la condizione del sicuro, sei più lontano da me. Sì. No, io stavo ascoltando con la... con l'SP430, con la linea esterna, quella sempre della Pisa, era una bomba quella colonia, non ha filtro, non c'è niente, ma è un demonio. Ah, non ne ha filtro il trago l'autoparlante? No, all'interno c'ha delle resistenze, qualche condensatore, diciamo, che c'è un tipo schedina, però non c'è altro. Io pensavo di aver fatto fuori dai filtri fuori, ma mentre si ha un suo crossover, però non credo era così, diciamo, un range. No, non c'è niente fuori, all'esterno non c'è nessun tasto, non c'è, ma guarda, ti dico che è una meraviglia, a qualsiasi radio dell'aggancio mi fa una modulazione bellissima. Non ne ho mai avuto di quelle autoparlanti, lo sai. Capito. Questa me l'aveva, veramente me l'ha regalata, va. Un amico me l'ha regalata, un radioamatore, che avevo comprato una radio da lui e non c'aveva la colonnina della radio, non si sentiva. E allora mi ha detto, stai tutta di finca, te la carichi a Darito. E mi ha detto di sì, te ne dia. E tutta matta è tutto quanto del regalo. Mi ha lasciato anche 400 euro. Sì, è compreso, allora quando a voi che l'hanno dato la mia comunità tra i bambini di Luca a Roma. Non ci ha pagato, c'è che la mia trivina. Capita, tu vai a funzionare con il radio, tutto quanto ti regalano. Non tutto quanto. Guarda, quello è un amico, un'amica zero, boh. Di quello che ti sto dicendo, faccio un nome perché non è giusto, però è un grande amico, tranquillo, e ne ho preso sul, dico tranquillo, io da quando sono rientrato a modulare, che non era tanto, sono entrato, allora sono 5, 6, 7 anni, quasi 8 anni fa, sono rientrato e ho comprato, e nel frattempo mi sono comprato allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 K mi sono comprato, sì, uno dopo l'altro, comprato e venduto. Ma cosa comprato e venduto, non ti piacevano? No, non mi piacevano come usciva, c'era quello che mi dicevano che non usciva bene, che era così, che era colato, no? Allora prendo e facevo fuori. Da quando ho preso questo, no, mi sono confermo. Secondo me quando finito non esce male, capita, bisogna lasciare la figlia qui. Allora, se io per esempio io non posso dare un controllo, un giudizio di una radio, per esempio con una radio come quella che sto usando adesso, che c'ha l'autoparlante, esatto, un effettino delle bambole, o l'autoparlante dei fuori, dei on flaxon, non puoi dire, magari chi ti stava ascoltando aveva un baracchino schifoso come questo che sto usando io adesso, che prende e mette in ponte a uno che ha una radio come si deve, non li devi neanche ascoltare, perché tu mi dici con che radio mi stai ascoltando, con una 48, ma vai a massa di tutto questo chiaro e tonno, no, capito? Cioè senza avere più sulla lingua, uno non ti può dare un controllo, tu stai facendo con una radio come si deve, non ti può dire ma sei un po' cupo, un po' cosa, ma per favore, non ti dico, e non ti ascolto, e ma no, c'ho l'antenna sul letto attaccata al muro in camera da letto, ma non ti dice bene, figli mia, non ti dice bene, figli mia, va a carezzare. lascia perdere fra, che io queste cose qua le ho viste, ma non nel campo, cioè nell'ambito delle radio, le ho viste in altri settori che dicevano gli autoparlanti non suonavano bene, quello non suonava bene, a favore degli usi, a chi non fa la mia, ma tu lo sai, io ho quella, allora vai fino a tutti i cammini, la roba che tu te la aggiorni, tu non mi dica di a me quello che devo fare, non devo fare. Capito? Ecco, sì, ma io gli hanno sicurato, sono un treno, che hanno messo in soluzione di orario, no, no, che fa, specialmente col capo, sto uscendo male, pazienza. Sì, ma infatti, ma io a te cosa ti dico sempre? Io a te ti dico sempre che quella radio è una bomba, ed è ciò bene, quella radio è una bomba, ed è ciò bene. Perché sarebbe l'olio, cioè uno deve essere proprio, caspita, ma le cose si fanno anche, le fanno anche con malizia, cioè, adesso non lo so se le fanno ancora, però forse come neanche ci permettono a fare, perché non vuole neanche mettere un cattivo. Però ci sono state storie che hanno detto che le radio uscivano male, che le radio non servivano, che quella non serviva, giusto per prenderla, per correre, non lo so più di. Così. E vabbè, a me, se non avevo una cosa, ma è cosa ne così, se no, ciao e arrivederci. Esatto. Se non mi fa il tuo numero, mi fa una telefona, così io mi ascolti bene, così io. Sì, non c'è né sulla modulazione né internet. È positivo. Ma se ne è andato, lo metto per radio, non lo metto là, se ne è andato. Va bene. Passa qui. Adesso ho aumentato un pochettino il volume, prova a metterlo a 3. Ok, guarda a vedere, adesso a 3. Ok, lasciala così. Quindi mi affermo, devo tenerla così. Io ti ascolto bene a 3, ti ascolto bene. A 4 è un po', tende un po' a strappare. Sì, però adesso non sei uscito quasi del radio. Ok, adesso non sono quasi del radio, adesso sì però. Ah, è una bomba. Adesso attacco, guarda a vedere se va bene. Ok. Lasciala, poi un shot. Bella. Sì, ti sei di nuovo riabbassato. Guarda a vedere ancora. Sì. Sono abbassato. Sì, di radio, di modulazione. Di nuovo, guarda a vedere adesso. Oh. Adesso sei uscito bene. Non lo so. Sempre così. Ho toccato il trimmerino del volume. Un, due, tre volte che non sei uscito dal radio. Adesso sto andando bene. Sì, adesso sì. Ok, perfetto. Non lo so. Facciamo a vedere come è così l'applicazione e poi siamo a posto. Ecco, 9.50, che era rido. Scusa quando sale, no? Che magari mi sta sedendo in bulu, la notte che lo fa da bagno. Almeno ti riscalda l'acqua gratis. Già stava portando una letta, quindi. Tanto mi ricaso a me, mi ricaso, basta fuggio. Esatto. Capita a Cararito, dove c'è una Cararito, mette nelle burrosi di Sari. Vabbè, io sono piccolo e nero. E anche io un po' più alto di te, però sono nero lo stesso. Capo. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Oh, va bene, 9.50 attenuato però sono. No, non sei attenuato. Attenuato, adesso te lo dico quanto sei, vieni avanti. Ma guarda a vedere che ho spostato un po' la sedia. Attenuato sei 9.10. Va bene. Socro, e te lo dico io, avrei dirti, adesso sta qua accordato e se si scoppia qualcosa. No, non ha scoppiato niente invece. Allora, ascolti la radio più forte. Questa è la radio spagnola, si suppone della radio spagnola in FM. Davvero? Ma guarda un po' io. Fatti, tu cos'è questa cosa? Ti stavo dicendo, a te non è, da 9.50 a 9.10 a te non è. Ma stai scherzando, capita già a te no, capita già a te no, per almeno se vino se va vedendo un lombardino. Attenuati anche il TV di Milo prende quando metto l'attenuatore, se uno per esempio è 9.30 me lo porta a segnare 7, ma se poi trovo anche il filtro IP che se la abbassa ancora in più, sì, il filtro NB1 e poi mentre lì come un po' più da solo l'attenuatore basta. Non ha nient'altro, ma questo non ha bisogno di attenuature, di vizie, di cose, visto che l'ha acquistato bravo, che è molto come il grasso. No, io ce l'ho il filtro, non filtro, l'NB1 e l'NB2, però filtri non ce ne sono. Ma dove? Nel team food? Già, dentro non ce ne sono, però si possono mettere. Sì, però nell'ICOM ce l'hai, i filtri. Sì, lì così. Mentre io nel ICOM filtri non ne ho, capito? Io ho solo il notch, che posso filtrare tutto quello che vuoi, però il TNUD sa anche, puoi attenuare delle frequenze, puoi attenuare anche delle frequenze, mentre l'ICOM no, non ne ha, non ce l'ha quella roba lì. Nei tastini, però non ne ha bisogno perché sono due radio completamente diverse, sono due mondi diversi, no, non c'è storia. Io come sempre ICOM, non vedi storia. Io come ti ascolto a te con l'ICOM, qualche uno di un poco finti, trassi sopra, canavati, tauri natale. No, con l'ICO ascolto molto più chiaro, me la posso abbassare, correggere tutto, no, tutto tramite il menu, però c'è tutto. Stai scherzando, quello che c'è tu è bello stesso, mi fra, quell'ICO che tu è bello, non è... sei buttato un ICO, sei buttato in Mercedes, vai poco da qua, sei buttato in Mercedes. Vabbè. Già va bene. Ecco preso. Ma sono i pagnoli se erano i volenti. Non ci sono più, ha finito, riesci a vedere, fatemo di bianco, non ci sono più, finite. Ma ecco preso che non prendo nulla da fare. Non c'è si fa per gatti, non vedo che corridano, giovani. Avranno capito. Che non c'è niente da fare, che tra di noi non ci può mettere la portante. Pongo lo squash tutto a palla, vedi, non passa neanche la bocca. Ui, lascia perdere. Lo so come mai, vabbè, non convincere la roba fuori da fuori, però. Così in locale come siamo noi a 3 km, io e ne arrivati in arrivo di musica, poi da tutta la notte vuole di musica. Gli spagnoli sono micidiali, eh. Oh, a 5.25 in VHF, cazzo con la chitarra, con tutto, sono i batteri della cogna che c'è il radioamatore. No, quelli non sono radioamatori, il radioamatore di queste cose non le fa, di queste cose il radioamatore non le fa. Il radioamatore quando entra in radio è per fare attività radioamatoriale, almeno per come la penso io. Anche quelli che sentiamo in 40 metri che mettono portanti, che mettono i fischi, quindi sono gente che la radio in casa non merita neanche di averla, capito? Quelli che mettono le portanti 27, quelli che fanno tutte le stipendiagini così, quindi non meritano neanche di avere la radio in casa, quindi il radioamatore no, non emette musica, no, non è un macco. Comunque, a fase che si cose sono i miracoli, i buoni, i miliardi, sono i ispirati li vogliamo presi e cercati e picchiati oltre la fanno una puta fine. Vabbè, ma uno come fa? Allora controllo non ne hanno lì da quelle parti in Spagna. A chi fanno il QSO, danno anche le sigle. Ma secondo me non è roba spagnola, già è roba di Noghi Buru, già è roba di Noghi Buru, poni in musica spagnola, però poni in musica talebana o con musica araba e dopo molto venire dall'Arabia, non è così. Magari anche qualcuno che prende può essere di qua o può essere, non parlo di Sassari, provincia, magari qualcuno con qualche amplificatore che prende questa musica spagnola e non fa parlare, capito? Oppure non lo so, però non sono radioamatori quelli che fanno queste cose. Radioamatore è una persona educata, non è facile. Cioè, quando uno entra in radio per fare attività, uno si è appilato la patente, non può fare festini. Non lo so, perché io ho visto che fanno QSO anche su quel canale, quella frequenza, fanno anche QSO, poi mettono musica, fanno di tutto, fanno. E gli animatori di qua parlano lo stesso, parlando anche loro là. Boh, io non ho compreso come fanno a parlare, perché si disturbano. Aspetta, a me mi arrivi a fondo scala, non arrivi nemmeno da idea. Ma facendo attività, però non con la musica. Anche con la musica. Boh, non lo so. Non è una cosa che ti so dire, quella, perché vabbè, segnale radio, uno dice lo so che si può presumibilmente capire verrendo, sei sempre sul forse, non lo sai mai, va bene. E quando ascolto io, quando faccio il radio ascolto in 40 metri, 40-80 metri, che gli mettono le portanti, che gli mettono i fichi, che gli mettono, che gli dicono che l'altra volta gli hanno messo faccetta nera, avanti popolo, ma non te ne fai la vergogna, ma là stai in vita, ma là stai sempre in solo Manzano, in 40 metri, in 80 metri. Sono persone pensionate, persone che prendono, stanno in radio, che non vanno neanche da fare, che stanno passando una vita travagliente, quindi sta tranquilli. Ma danza di già, ma fa prenditi la patente, se vuoi entrare ti prendi la patente e parti, altrimenti lasci perdere. Mi segui fra cosa come la penso io. Quelle sono gente che creano audience. Perché poi non sono neanche furbi, perché queste persone qua hanno esperienza, capito? Questi radioamatori che parlano, che sentiamo, hanno anche esperienza, c'è molto da imparare, forse non se ne accorgono, se invece di fare le stupidaggini avessero ascoltato, forse ci sarebbero avrebbero fatto anche un po' di cultura. E quello c'hai ragione, c'hai. No, perché sono abbastanza, quegli anziani sono abbastanza, fanno ragionamenti di radio, di antenne, sono di queste cose qua, non sanno lì a parlare di cazzate. Esatto, questa persona gli ha spiegato come entrare nel menù, l'ha fatto la radio, capito? L'ha fatto la radio così in trasmissione. È bello ascoltarle perché ti insegnano tante cose, anche se molti non lo ammettono, però sono persone che hanno esperienza e hanno tanto da imparare da loro, però con l'ascolto, se ci fanno ascoltare, però se c'è l'ignorante, c'è il tonto che prende, mette la portante, inizia a fischiare, inizia a fare quello, ma cosa impara. Capri, nulla hai sentito? Rumore? Rumore di cosa? Fuori, come un tuono grosso. No, Franco, non ho sentito niente. Neanche la radio mi ha dato scarica. Perché? Cazzo, mi sono assustato, sono questi da fuori. Aspetta un minuto. No, ho sentito come un boom. Ma so cu vossemi. No, E vedi lo che è nuga fura. Ah, magari non sta che ci sente, no, fra. Sì, che ci sente, tornarsi. Magari qualche incidente, vedi, si sente ambulanza. Adesso vediamo. E su che non deve farfalle, ne sono entrende, vedi maduri. Sì, la roba di sinistro è mocca, baita, odiose, odiose, odiose, fra. Cap. Ma pure il gara va su a mozzi. Te l'ha detto qualcosa, mi fra. Security X, taglia il mic, buonasera. No, non c'è niente. Non c'è niente? No. Ehi, vabbè. Va bene, guys. Sì, ma un zocco, noi siamo una cosa normale. Non so come ti dica io. Non per nulla. Se è una cosa normale, cos'è? Sta arrivando qualche missile dalla Russia. Putin, un missilino di quelli dei faticcanti ha mandato. Capita che arrivi a proprio a casa mia. Chissà chi vuole antenna. No, allora lo mando a casa di su che è pura. La manco ne agava. Chi ne ha fatto l'intera antenna avrà. Ha mandato un missilino del fabbricante di quelli russi, e ci mando un missile nucleare a vista sul cane. Non si sarà cos'è? E male di bene. Oia. E che c'era poco fa? No, ho sentito un security X, però poi deve essere, gli si è bruciata la radio e non ha più detto niente. Tanto era il trucco. Da Ipagna. Va via Radio Manna, vicino. Valvoli, manni. Valvoli, non valvoli, se arma tu va via, vicino, va valvoli. Oh, io già. Tanto era il mio, tanto era il mio, tanto era il Agita fra, mi pare io mi goffo, ma se no che mi pare si faccia per il taglio. Che cosa? Oh cavolo, ma che non ti manco resi subito? È positivo, domani c'è la sveglia. Capito, Tino è mangiando un copo davvero, Tino, ma tu pensi lì? Ha detto che non ha presa mai niente, avete proprio che è una gaima, Ma bisogna non avere fretta mangiando, perché uno quando c'ha fretta non digerisce bene. Ma quando va giù fame, non c'è niente da fare. Va bene, magari era stanco, è andato a riposare, Va bene, fra, dai, ce la ascoltiamo tutto alle prossime, ma domani se coincide, io qua chiudo la trasmissione, con questo passaggio chiudo la trasmissione del Radio FM sul canale 12. E saluto tutti gli SV all'ascolto, in particolare se c'è il mio amico Giulio. Ciao Franco, ciao Giulio, ciao a tutti, buonanotte, ci sentiamo. Capolei, ciao, ci sentiamo allora. Alle prossime, speriamo che faccia meno caldo domani. Ciao Giulio, se ascolto. Domani ha dato la punta del caldo, domani è la giornata peggiore, fra. Domani è la giornata peggiore, domani arriveremo a 41 gradi. E vuol dire che in più un bussetto di agarri e mi si bongo io. Tanto vale tira a fare un poco quei agarri, mi sono incontenti, se no si scongeleggia. Va bene, dai, a domani, se coincide, ciao Franco, buonanotte. Ciao, buonanotte.